in primo piano. Mercoledì 3 novembre, la scelta dell'apertura dei giornali, a parte il Sole 24 Ore, tornano le due Americhe, la vicenda delle elezioni di midterm, di cui si occuperà Oscar Giannino oggi alle 9, e è la questione di Berlusconi e i gay, la famosa frase, meglio guardare le ragazze che essere omosessuali. Berlusconi attacca gay e stampa per il Corriere, Berlusconi insulta i gay, c'è un po' in tutte le salse, sul Messaggero, su Repubblica. La stampa mette la frase, il tema è questo, quello della dichiarazione che ha suscitato un vespaio di polemiche inserita nel discorso delle vicende Ruby e poi è compare una nuova escort. Lo vedremo più avanti, le due segnalazioni veloci in questa anteprima di rassegna stampa, se vogliamo dire così, riguardano due storie di bimbi ben diverse. Il bimbo salvo dopo un volo di 25 metri. Lo leggo a pagina 28 del Corriere della Sera. È successo davvero un miracolo a Parigi. È un miracolo, urlavano ieri i passanti, increduli dopo aver visto un bambino volare dal cielo, rimbalzare, caduto da un balcone, rimbalzato sulla tenda di un bar, si è salvato grazie alla prontezza di un passante che l'ha visto, strattonato dal suo figlio, ha detto guarda che c'è un bambino che sta scavalcando la ringhiera del balcone. E allora il signore si è messo sotto, si chiama Philippe Bensignor, fa il medico, ha detto devo prenderlo al volo. Dopo il volo di 25 metri è rimbalzato sul tendone di un locale e poi questo signore è riuscito a prenderlo al volo. Neanche la minima escoriazione, il bambino ha pianto un po', ma dopo pochi minuti si è calmato. A 14 mesi, giù dal settimo piano, rimbalza su una tenda, lo afferra un medico. Beh, se non è un miracolo questo. Un'altra vicenda che riguarda un bambino ben diversa la trovate su tutti i giornali, ha scioccato letteralmente la Spagna, un bambino e una mamma, perché è successo a Jerez in Andalusia, dove una madre ha messo al mondo un figlio. E che c'è di strano, voi dite? Beh, c'è di strano che la madre ha 10 anni. Un parto peraltro, dicono i medici, che è andato tutto a meraviglia, nel senso tutto alla perfezione, non c'è stato neanche bisogno del parto cesareo. La bambina madre è rumena, ha detto nel nostro paese è così, non c'è problema. Insomma, mi sembra un pochino strana questa affermazione. Peraltro il padre, anche lui, è minorenne. Ora c'è un grande dibattito, madre bimba 10 anni, ma le toglieranno il figlio, questo sul Libero, così come il Quotidiano Nazionale. Parto shock in Spagna, mamma bambina a 10 anni, è di origine rumena. Lei e il neonato stanno bene, che queste sono le cose più importanti. La nonna ha detto è una cosa abituale nel nostro paese. E così anche sul giornale, mamma, bambina, ma si può crescere un figlio a 10 anni? Questo si chiede il giornale, è arrivata un mese fa dalla Romania e dice nel mio paese è normale. Ma i servizi sociali e anche il governo ha detto si prenderanno cura di loro e adesso non capisco se le toglieranno il bambino oppure no. In ogni caso certamente li accompagneranno in questo percorso. Due notizie relative ai bambini per iniziare e ora dopo pubblicità e meteo ci butteremo insomma nella consueta e quotidiana rassegna dedicata a Ruby, escort e quant'altro. E allora la battuta sugli omosessuali del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha scatenato la bagarra. Meglio guardare le ragazze che essere omosessuali. E questo dà spunto a tutti i giornali di aprire più o meno su questo, con questa frase. Berlusconi insulta i gay è la frase più gentile, insomma, il titolo più gentile che trovate sulle prime pagine. L'Unità è la tragedia di un uomo ridicolo, per esempio. Ma vediamo, allora intanto ci sono le varie reazioni, interviste, per esempio il Corriere della Sera pagina 10 intervista il direttore di Chi, Alfonso Signorini, che dice questa volta ha sbagliato totalmente, ha sentito Berlusconi sui gay, ero in viaggio, all'inizio mi sono detto non può essere, sarà stato frainteso. Ma poi dice ha sbagliato, è una butade ma non fa ridere per niente, capita anche al miglior barzellettiere di sbagliare. A Natale gli regalerò Come diventare gay in 5 settimane di Claudia Mauri, mi offro come tutor e vediamo se accetta la sfida. E le reazioni anche della politica, Vendola, il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, che ha sempre detto apertamente di essere omosessuale e che ha girato un video, si sente colpito come omosessuale. Caro Berlusconi, le tue battute feriscono tutti, sono una minuscola enciclopedia di imbecillità. Se un tuo figlio, un tuo amico, un tuo ministro fosse gay, pensa quanta gratuita sofferenza gli staresti infliggendo. Così come Bersani. Qualcuno dice ha voluto sviare, cioè questa battuta di Berlusconi è anche dovuta al fatto magari di volere spostare l'attenzione, creare la polemica su questo, e effettivamente ci è riuscito almeno per un giorno, perché i titoli sono tutti sui giornali su questa battuta, magari per sviare dall'attenzione, dalle altre vicende che lo vedono coinvolto, insomma la vicenda di Ruby. Oggi è comparsa appunto la nuova escort, tra l'altro Maurizio Belpietro in prima pagina di Libero dice il cavaliere deve cambiare chi gli sta intorno, sostenerlo non significa dargli sempre ragione. Tra l'altro Maurizio Belpietro risponde a un lettore che gli ha scritto dicendo: ma come, anche voi di Libero che ieri avete titolato attenti viene giù tutto, poi ieri su in prima pagina di Libero c'era Filippo Facci che è stato molto critico nei confronti di Berlusconi, e Maurizio Belpietro dice non vuol dire che bisogna sempre dargli ragione, anche se lo sosteniamo politicamente. Sta fatto che queste dichiarazioni hanno suscitato un putiferio, anche la stessa ministro Mara Carfagna, che si dice sempre impegnata per contrastare tutte le discriminazioni sessuali, ha detto questo governo ha il merito di essersi impegnato come nessuno prima contro le discriminazioni, per questo sarebbe opportuno non oscurare questo lavoro costante e condiviso, frutto di impegno. Da Polverini alla Carfagna, gelo tra le donne del PDL, questo per il Corriere. L'unica che si smarca è Daniela Santanchè, che dice testuale: Berlusconi ha detto quello che tutte le mamme d'Italia vorrebbero sentir dire dei loro figli, ha detto quello che tutti gli italiani pensano, molto meglio essere etero, ma c'è da discuterne? Così Daniela Santanchè. La vicenda appunto di Ruby, come dire, è un po' più avanti nelle pagine dei giornali a questo punto, e fa segnare la notizia più importante, è quella che ieri il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, il capo della procura, ha parlato, o meglio ha fatto una nota nella quale sostanzialmente si dice l'affidamento della ragazza quella sera in cui ci furono le due telefonate dalla presidenza del Consiglio alla questura, l'affidamento della ragazza è stato corretto, sono state seguite le procedure, sul punto non ci saranno altri accertamenti. Beh, questo era un punto sicuramente importante di contestazione al comportamento del Presidente del Consiglio, tanto che anche Repubblica lo dice, insomma, la procedura è stata corretta, questo dice la Procura. Ora, che cosa invece si fa registrare, qual è il timore secondo il Fatto Quotidiano? È intanto quello delle telefonate, perché secondo Davide Miloso e Ferruccio Sansa, pagina 3 del Fatto, ieri Berlusconi, oltre a questa sparata sugli omosessuali, ha detto non ci può essere un paese in cui ci sono le intercettazioni, farò chiudere i giornali, credo la frase più o meno del genere, che pubblicano le intercettazioni, perché il terrore di Berlusconi corre sul filo del telefono. Il Fatto dice che le ore di intercettazioni sono centinaia, un'inchiesta in corso da mesi, ancora prima del fermo di Ruby. Si tratta di prostituzione di alto bordo, meglio di favoreggiamento, telefonate nelle quali si parla di ragazze immagine starlet televisive che arrotondano incontrando a pagamento negli alberghi della città professionisti e imprenditori, dialoghi che riguardano apparentemente solo ragazze immagine che partecipano alle feste del Premier, ma una volta ascoltate in procura le donne cominciano a raccontare, nessuna ammette di essere stata a letto con Berlusconi, alcune però dicono di aver visto altre modelle avere rapporti sessuali con il Premier. Cioè, questa è l'inchiesta che starebbe in qualche modo con il solito codazzo di intercettazioni che, se ci fossero, se fosse tutto confermato, non state tranquilli che le leggerete tutti abbondantemente sui giornali, e che starebbe per arrivare, per esplodere. Certo, come titolo al Riformista, una escort tira l'altra, bisogna... Gli eventi ormai da questo punto di vista si succedono in maniera talmente repentina che ormai della vicenda Ruby quasi non si parla più. La nuova donna comparsa e che compare sul sul palcoscenico è Nadia Macri. Nadia Macri, le cui foto potete vedere, sicuramente una ragazza che non passa inosservata, a pagina 15 del Corriere della Sera, ma anche su Repubblica, incontri con Berlusconi, mi pagò 10.000 euro. Eccola qui, Nadia Macri, la escort, IPM, andai ad Arcore in Sardegna, incontrai il Presidente del Consiglio 3 volte, nella prima occasione non ci fu alcun rapporto sessuale, mi invitò a Villa Certosa in Sardegna, poco prima del terremoto dell'Abruzzo del 2009, nel periodo di Pasqua, nelle stanze in Sardegna c'era erba da fumare che veniva trasportata col jet privato del Presidente, e tra l'altro il Corriere con Giovanni Bianconi si chiede, non è chiaro come la donna sia arrivata a questa conclusione, venivano offerti un paio di spinelli a ogni ragazza, ma Berlusconi non ha mai fumato erba. E poi il racconto che coinvolge altre personalità, per esempio, quando ho bisogno di soldi, dice Nadia Macri in questo racconto che Giovanni Bianconi dice tutto ovviamente da verificare, vado a Parma, lì c'è un bel hotel vicino alla stazione, una volta incontrai il sindaco di Parma, avevo fatto colpo, dopo siamo andati in villa e abbiamo avuto un rapporto sessuale per 500 euro, dunque... Anche col sindaco Pietro Vignali, che subito sentito dal Corriere dice come, esordisce così nell'accusa, guardi io non so niente, non la conosco e questa vicenda è assolutamente, sono estraneo, non sono uno che paga le donne. Ma Nadia Macri va avanti, dice il sindaco di Parma mi presentò a Silvio Berlusconi, il quale una volta si arrabbiò, mi ha detto che io parlo troppo, ero ubriaca, lui mi chiese che facevo e io risposi le marchette. E lui si arrabbiò facendo uscire l'altra ragazza dicendo che non dovevo dire queste cose. Voleva andare al Grande Fratello, racconta di queste feste, noi ragazze ci alternavamo col presidente e lui diceva avanti la prossima. E anzi, talvolta stavamo tutte insieme nella piscina dove veniva consumato il rapporto sessuale. Poi Nadia Macri tira in ballo anche il ministro Brunetta. Andai insieme da Brunetta nel suo ufficio e anche con lui ho avuto un rapporto sessuale. E speravo di mantenere una relazione con Brunetta per guadagnare un po' di soldi, mi diede vestiti, gioielli e 300 euro, tuttavia la cosa non durò molto. Brunetta, anche lui, ha fatto un comunicato dicendo sono dichiarazioni fuori dalla grazia di Dio, mi tutelerò con ogni mezzo tutelerò la mia persona col mio avvocato e non ho più nulla da dire di questa vicenda. Ha ribadito quello che ha detto ieri, mi venne presentata una volta a un convegno dicendo che in lacrime questa ragazza aveva problemi con l'affidamento del figlio, gli presentai l'avvocato Taormina e per me la cosa finì lì. Per la verità l'avvocato Taormina sul Fatto Quotidiano a pagina 3 in un'intervista a Marco Lillo da una versione diversa. Brunetta la conosce molto bene questa Nadia Macri, altro che incontro occasionale, balle, è venuto nel mio studio accompagnando questa ragazza molto appariscente e anche devo dire provocante nei modi, non una volta ma più volte, mi disse che era una sua amica, un angelo che dovevo difendere in una situazione personale molto delicata, la seguiva come se fosse una sua problematica personale, altro che conoscenza di un giorno. Questo, ripeto, lo ripeto per il secondo giorno consecutivo, è il clima. Silvio mi diede 10.000 euro ad Arcore a Villa Certosa, trovavamo la marijuana, così è sintetizzata su Repubblica. Non è finita, cioè le vicende, un escort tira l'altra. Libero, pagina 13, bordata in arrivo sul fronte mafia. Le procure siciliane si muovono, secondo Gianluigi Nuzzi, presto ci sarà una nuova inchiesta per riciclaggio su Milano 2 e gli uomini di Silvio Berlusconi. Dalla procura di Roma e da quella di Reggio Calabria, indagini su esponenti nazionali del PDL, accuse di corruzione in un caso di associazione mafiosa con l'Andrangheta. Un'ipotesi che nell'entourage di Berlusconi si è sempre liquidata come pura fantascienza, ma che troverebbe sviluppi nelle recenti indagini partite dalle parole di Massimo Ciancimino. Era quello che ieri già anticipava La Stampa con Ugo Magri e che oggi viene rafforzato da questo articolo di Libero. Vedete, la vicenda di Ruby è quasi ormai già passata in secondo piano perché scavalcata da questa nuova escort, Nadia Macri, che tira in ballo Berlusconi, Brunetta, il sindaco di Parma. E chissà se ci fermiamo qui. La situazione politica in tutto questo è che la troviamo a pagina più avanti dei giornali, ma la resa dei conti è il termine che trovate più sui giornali riguardo alla situazione politica. La resa dei conti, secondo Francesco Bei su Repubblica, addirittura Berlusconi sarebbe pronto alle dimissioni come sorta di minaccia se Gianfranco Fini, che domenica presenterà la prima convention del partito, del Futuro e Libertà, se Gianfranco Fini dirà faccio l'appoggio esterno. Anche per La Stampa, Ugo Magri, Bossi, basta, rovesciamo il tavolo. Lo snodo chiave sarà proprio questo weekend, quando Fini presenterà il nuovo partito. Il leader leghista, ieri Bossi, ha detto a Berlusconi, molto chiaramente, a Palazzo Grazioli, se Fini decide domenica l'appoggio esterno, questa è l'occasione buona per buttare all'aria il tavolo, andare alle elezioni e scaricare su di lui la colpa. Anche secondo l'Unità si chiede chi stacca la spina. Bersani dice Fini, stacchi tu la spina questa domenica, se non stacchi tu la spina la stacchiamo noi la spina. Poi voglio dire, i numeri in realtà ce li ha solo Fini. Sta di fatto che Susanna Turco sull'Unità pagina 7 dice l'ex DAN si sposta un po', appoggio esterno. Cioè questo è il tema dell'appoggio esterno, si sta facendo sempre più largo tra i finiani, che sono divisi però su questo, cioè chi vuole l'appoggio esterno e quindi la possibile rottura, crisi di governo, perché Berlusconi non l'accetterebbe. E c'è chi invece dice no, non facciamolo, nulla è deciso a priori, ma l'Unità fa sapere che ci sarebbero altri 4 del PDL che abbandonano il PDL e vanno con Fini. L'annuncio potrebbe essere oggi, prendete nota se volete, sono gli onorevoli Rossi, Musso, Bonciani e Toto. Questo per l'Unità. Segnalo, giusto per concludere la situazione caotica della politica in questo momento, a pagina 14 del Sole 24 Ore, il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Sole 24 Ore, le previsioni di voto, il nuovo centro arriva al 21%. Secondo le previsioni di voto, racconta Emilia Patta, API, cioè quello di Rutelli, UDC, FLI, cioè Finiani, e Movimento per l'Autonomia di Lombardo sarebbero, secondo questa proiezione, al 21,1%, il grande centro, così è definito. Il Partito Democratico sarebbe al 22,2%, con una simulazione col grande centro, lo scenario attuale è al 24%. Se invece si prevede questo grande centro che toglie un po' di voti qua e là, il PD scenderebbe al 22,2%, il PDL, lo scenario attuale al 29,5%, secondo questa proiezione scenderebbe al 26,7%, e la Lega, che ha lo scenario attuale all'11,1%, scenderebbe, con l'ipotesi di un grande centro, al 10,3%. La coalizione, diciamo, PDL, Lega Nord e la destra sarebbe al 38%, la sinistra, la grande sinistra, tutti da PD, Italia dei Valori, Vendola, eccetera, al 35%, e ci sarebbe questo grande centro al 21,1%, che certamente sarebbe un ago della bilancia notevole. Questo per il sondaggio di Nando Pagnoncelli. La riscossa dei repubblicani, questo è il titolo dell'articolo del Sole 24 Ore sulla vicenda delle elezioni di midterm, su cui si concentrerà Oscar Giannino oggi alle 9. E dunque quello che è successo negli Stati Uniti, oggi i giornali ovviamente raccontano che cosa? Beh, intanto è l'apertura anche del Sole 24 Ore che di fatto, giusto per fare un grande sunto, l'America è andata al voto e la Camera dei Deputati si è spostata per i repubblicani, mentre al Senato dovrebbe esserci, o meglio, i democratici hanno mantenuto la maggioranza al Senato. Questo però ovviamente nella notte continuano ad arrivare i risultati per verificare quello che ci saranno poi i dettagli, bisognerà aspettare qualche ora e per le analisi vi invio davvero e vi rinnovo l'appuntamento con Oscar Giannino alle 9. Certo, però il tema che è molto sviluppato dai giornali è questo: la Camera va in mano ai repubblicani, dunque un presidente Obama che si trova con una Camera in minoranza per i democratici, mentre i democratici hanno tenuto il Senato, e dunque ora bisognerà capire, insomma, come il presidente americano nei successivi 2 anni di mandato si comporterà e si muoverà politicamente. Per quel che riguarda la cronaca italiana, c'è ancora tanto sui giornali sulla vicenda del maltempo che incredibilmente, io aggiungo per il secondo giorno, ha causato, con qualche giorno di pioggia, sicuramente pioggia intensa, un dissesto incredibile, disagio alla popolazione, soprattutto in Veneto. Bertolaso sferza i sindaci. Così a pagina 8 del Sole 24 Ore, dopo le inondazioni al centro-nord, il territorio è da mettere in sicurezza prima dell'arrivo delle alluvioni. Indovinate un po' se questo ennesimo appello verrà recepito oppure no. Sta di fatto che si è arrabbiato abbastanza il neo ministro da poco e ex governatore del Veneto Galan. In un'intervista al Corriere della Sera dice: noi abbiamo speso 400 milioni in 5 anni, non scambiateci con altre regioni. Se la prende con Bertolaso: vediamo di non scambiare il Veneto con altre regioni d'Italia. Noi abbiamo speso appunto 400 milioni di euro per le opere di difesa del territorio. Posso dettagliare anche tutte le cifre. Posso anche aggiungere che il Veneto è la prima regione modello per la raccolta differenziata. Sono fuori tema, lo so, però lo dice intanto Galan. E comunque si arrabbia perché dice: noi del Veneto abbiamo fatto molto. Poi non siamo una regione a statuto speciale come le nostre confinanti, che dispongono di fondi molto più cospicui per le opere pubbliche. Il capo della Protezione Civile, per favore, si informi meglio prima di fare dichiarazioni infondate. Un Galan piccato per questa tirata all'orecchio di Bertolaso, che comunque conferma: giovedì o venerdì ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza nel Consiglio dei Ministri. Però Bertolaso ha detto: i sindaci e gli amministratori locali possono intervenire autonomamente prima che dobbiamo intervenire noi e prima che piova. Ho una vicenda di cronaca che trovate sul Corriere della Sera, una vicenda abbastanza incredibile. Travolge motociclista e fugge, l'auto è di un diplomatico. È una vicenda che ha coinvolto la morte, tra l'altro, di Marco Bartoccioni, architetto romano di 26 anni, travolto da un'Alfa 156 grigia quando era sulla sua moto. Qual è il problema? È che è stata rintracciata la macchina, è stata rintracciata la targa. Ebbene, appartiene a un diplomatico dell'ambasciata dell'Ecuador. Questo è un problema perché non potrà essere interrogato, a meno che non ci sia l'autorizzazione del paese. Non è chiaro se al volante ci fosse proprio il diplomatico, ma certo la famiglia è disperata dicendo: sappiamo chi è stato, almeno qual è stata la macchina che l'ha investito. Questa persona che era a bordo lavora per l'ambasciata dell'Ecuador, non si capisce in che qualità, insomma, chi è come dipendente dell'ambasciata, ma ora c'è l'appello di questa famiglia: chi ha ucciso mio fratello abbia il coraggio di dirlo, di farsi vivo, immunità o meno, a noi non interessa. Vogliamo sapere chi ha commesso questo gesto atroce. Ma certo, travolge motociclista e fugge, l'auto di un diplomatico è stato ripreso, immortalato dalle telecamere, ma non potrà essere interrogato. Chiudo, e trovate molto, è sport ma non solo, l'ultima cassanata. Sapete che Cassano ha mandato a quel paese, uso un eufemismo abbondante, il presidente della Sampdoria, Garrone, che da quel momento gli ha rescisso il contratto. Ora Cassano dice: pago anche 1 milione di euro, ho sbagliato, chiedo perdono, ma Garrone non ne vuole sapere. Cassanata amara è un'intera pagina sul Fatto Quotidiano, a pagina 15 si ricostruisce quello che è successo con Garrone, che voleva portare Cassano a una serata in un club, inizio paternalistico, dai, te lo chiedo come favore personale, la situazione degenera, mi dici no dopo tutto quello che ho fatto per te, e a quel punto Cassano sbatte le porte, gli dà del vecchio di merda, figlio di qui, figlio di là, madri, mestieri antichissimi, parolacce in dialetto, sporte sbattute, uno zoo pallonaro che racconta Malcolm Pagani sul Fatto, davvero incredibile, tanto che oggi anche Mancini, ex gloria della Sampdoria, oggi allenatore in Inghilterra, dice in un'intervista al Secolo XIX: Garrone, presidente, perdona Cassano. Questo è il tema, perdona Cassano. Mi spiace che sia successo, ma va perdonato, chissà. Ci fermiamo qui, votate il sondaggio. Un signor olandese ha portato la moglie italiana a morire in Olanda, era alimentata col sondino come Luana Englaro, non volevo che diventasse come lei un caso per anni. Che ne pensate? Ora il GR.